Bene, non so cosa possa servire, cosa misurino, sinceramente, perché campo elettromagnetico, non lo so, forse qualche centrale, qualcosa del genere. Poi c'erano i piedini, quelli da lasciati, piedini pneumatici sotto, questo qua si sollevava la terra e si stabilizzava a bolla, tutto con un sistema pneumatico. E più c'era tutta la strumentazione, ne hanno smontato tutto, ne hanno fatto togliere tutto, compreso questo palo bellissimo che ne usciva da sotto, tipo come c'era l'escoradio, l'escopo, però questo era molto più grosso, dai. Volevo vedere, ne ha smontato tutto, peccato, ho detto, allora potevi lasciare a me. Sì, infatti te lo stavo per dire, avrei voluto il palo pneumatico, quello sì che tirava su, con la famosa logaritmica che tutti temevano, che ruotava pure, quello l'hanno utilizzato, te lo ricordi quando c'era quel palo furioso, su Tramonte, in quelle zone lì, che andava a disturbare gli aerei, che andava a terra qua, era là. E hanno utilizzato quello. Si trovano subito, adesso stanno uscendo molto di meno perché sono cose penali, magari prima era un po' meno complicato, adesso se ti azzardi a attaccare un'antenna appena appena ti rilevano immediatamente, escono a tutti i giorni, a tutte le ore, anche non lo fa più nessuno, hai visto, ti ricordi quello vicino all'aeroporto di Hermas che si era messo col baracchino un radioamatore a disturbare lo stesso di aerei qualche anno fa, ha preso una denuncia allucinante. Secondo più incontri poi c'è l'aggravante terroristico, magari, no? Io sto per metterti a cuccia per un bel po'. E ti volevo dire, ma quello ecco, ci sono parecchi aerei che hanno quel compito adesso, quindi non è solo da terra, ma anche dal cielo che lo possono fare. Sono due aerei, uno è il famoso P, come era P90, insomma quel Piaggio, no? Il Piaggio quello che ha due eliche dietro, che fa quel rumore caratteristico, che è unico al mondo. Quello che è dell'ENAV, ne hanno tre o quattro di questi aerei, che sono sempre in giro per le cosiddette radiomisure, ma quello dire va per dentro di tutto, di più su qualsiasi frequenza. E poi ce n'è un altro meno conosciuto, che è una TR, che è tutto nero, che è un marrone scuro comunque, che è dalla Guardia di Finanza. Anche quello dentro deve avere tante cose che a me piacciono tanto. Sicuramente poi non entriamo in ambito militare, quelli antenne, quei radar, quelli lasciamo perdere, quelli girano 24 ore su 24 negli spazi aerei, in modo da avere sempre una copertura istantanea. Infatti, ma guarda, comunque quello che ha detto un generale inglese è che potranno fare tutti i satelliti che vogliono, però per un uso tattico a distanza l'HF c'è e ci sarà sempre, anche perché comunque anche l'HF oramai in quell'ambito lì digitale, quindi c'è poco da fare. Tanto non esiste essere inidentificabile, ormai qualunque cosa trovano la cosa e poi c'è trovato l'inganno, come scoperto l'inganno, qualunque cosa riescono a decifrare. Io non so se tu ascolti i segnali HFDL, ne hai mai sentito parlare? HFDL, no, spiegami un po', magari l'ho ascoltato. Sono segnali digitali che trasmettono gli aerei e danno di norma la loro posizione e altre caratteristiche varie. Una forma di packet. Guarda, io li ricevo tutta la parte nord e anche sud atlantica, ti dico solo quella. Allora, a proposito di quello, no, io ci vado molto spesso. Noi, non so se ti ricordi cosa era successo in Ucraina qualche mese fa. In Ucraina noi abbiamo dei caccia che fanno il controllo aereo lì per evitare intrusioni, soprattutto i russi. No, quando è successo quel fatto, non in Ucraina, in Bielorussia, di quello che hanno dirottato quell'aereo Ryanair per prendere quel, come si chiama, dissidente, non so se ti ricordi. Sì, ma lo ricordo. Tempo fa, parliamo un mesetto fa, ho sentito un aereo passare sopra la testa, strano, questo è un rumore strano, ho detto che cazzo sta facendo questo aereo, è partito da lì, ha fatto tutto un giro strano, perché lì avevano vietato di passare aerei, ti ricordi il spazio aereo chiuso, tutte le compagnie, no? Ed è passato esattamente sopra la Sardegna questo aereo, un Antonov militare, poi a un certo punto poi è scomparso dallo schermo, dai, non esisteva più, chissà cosa accavamo, ha fatto tutto questo giro strano, è salito in Germania, è sceso giù verso sopra, vicino alla Kursk, non è passato sopra la Kursk, vicino, e poi è passato sopra Alghero, c'erano un aereo italiano, non mi ricordo se stava venendo a Barcellona o da dove, si è fermato, girava intorno e l'ha lasciato passare, non ho capito cosa stava combinando questo aereo. Guarda, se fosse stato un aereo ostile, quindi il nostro centro di controllo comunque lo sapeva cosa stava facendo, di chi era, di chi non era. Se fosse stato, tra virgolette, un aereo ostile, sarebbe subito scattato lo scrambler, quindi tempo pochi minuti da decimo anno sarebbero arrivati i soliti due caccia che l'avrebbero intimato o di atterrare o di levarsi di torno, perché come tu sapevi ci sono su ogni regione vari reporti militari adibiti al controllo aereo che vengono allertati da una stazione che c'è europea, perché c'è la difesa dei cieli europea, che è a Barcellona, credo sia a Tarragona, una cosa del genere, c'è il comando europeo del controllo aereo militare, quindi sono chissà che razza di radar e di apparecchiature c'hanno. Questo viene, lì si svolge il primo allerta di sospetto, quando questi aerei sorvolano vari spazi aerei, e viene comunicato immediatamente, se non già rilevato, dalle stazioni poi nazionali, che danno subito l'allerta, però lo scrambler parte già da questa stazione europea che è in Spagna, già da lì gli aerei iniziano a decollare, poi il contatto viene fatto con i centri di comando e controllo radar militari per vedere chi è l'intruso e che intenzioni c'ha. Sì, no, ma quello che mi ha meravigliato, siccome noi ci raccontano le balle che vogliono loro sui media, sui telegiornali, eccetera, eccetera, mi ha colpito questo aereo, che c'è stata questa crisi tutta strana e gli permette di attraversare lo spazio aereo, prima tedesco, perché è salito su, e poi è sceso giù, diciamo verso Genova, è sceso, attraversato a fianco della Corsica, è passato nello spazio aereo della Sardegna, ha girato sopra Alghero, ha fatto tutto un giro strano, questo aereo, è salito, poi è sceso, poi ha girato e attraversato il Pacifico, a un certo punto poi non l'ho più trovato, l'ho perso. Quello che mi ha meravigliato, stava arrivando un aereo da Barcellona per atterrare ad Alghero, l'aereo non si può fermare, ha iniziato a girare intorno a questo aereo per farlo passare, infatti sono rimasto a bocca aperta, infatti ho detto, chissà cosa cavolo stavano combinando, sicuramente ci sarà qualche accordo che noi non sappiamo, perché teoricamente quell'aereo ufficialmente non si doveva vedere perché era un aereo militare, eppure si è visto. Beh, guarda, non è detto che sia per forza militare, perché gli Antonov vengono utilizzati anche per il civile, ce n'è uno io che passa, non dico ogni giorno, ma almeno due volte alla settimana, c'è anche quello un rumore caratteristico che va a servizio da quei paesi lì, Ungheria, non so dove, e vanno in questo paesino del cavolo dell'Africa, che questo aeroporto ha proprio velocemente del coso lì, dall'asfalto c'è la sabbia, guarda. E c'è questa linea aerea che fa questa cosa. E sulla Sardegna ne passano tanti, tra cui anche quegli aerei giganteschi americani, che vanno da una base che sia in Portogallo, che è della Marina Leuda, che si chiama una cosa del genere, e l'altra che è sempre in Spagna, che è di supporto, e quella va fatta vicino alle Baleari, e poi sulla Sardegna, praticamente sopra di noi, e spesso vanno lì a Filomella, che ovviamente non c'hanno problemi. L'altra volta, siccome la parte della Filomella, ho visto un triangolo che si muoveva, e stranamente poi comparsa, ho capito cos'era, perché a metà strada hanno spento tutto, ed era sicuramente, stavo andando dalle parti della Siria, lì in quelle parti lì, perché intorno a Malta hanno spento tutto. E la stessa cosa, infatti, ti volevo dire, è capitato lo stesso subito dopo di questo fatto qua, un elicottero, e a parte l'elicottero l'ho visto volare a qualche cosa, era l'Argentina, era uno di quelli delle Augusta, quelli tipo la Apache, dai, quel genere di elicottero, volando proprio a pelo d'acqua nel petto dell'Argentina. È fatto strano che voli così basso e all'Argentina, mi ha meravigliato un elicottero di quel genere militare davanti alla luce del sole. E poi qualche giorno dopo uno stesso, un elicottero che non si può dire di che cosa, lo stesso con trasfondere acceso, arrivato a un certo punto stava facendo volo circolare in una zona di Orizzano, con la zona lì girando intorno, non so per quale motivo, perché la prima cosa che ho pensato, poi stanno cercando Graziano Messina o c'è qualche rapimento o qualcosa del genere. Poi dopo un certo punto ha spento tutto e non so anche dove sia andato. Sì, guarda, di elicotteri qua, cioè un elicottero è passato qua per tutta un'intera mattina andando e tornando, era senza trasfondere, era senza segne, ed era, madonna, tipicamente militare, mi è sembrato un monoturbina, tra l'altro. Non ho fatto in tempo a notare se ci aveva sotto il famoso, la famosa torta, chiamiamolo così, che sarebbe il radar. Molti di questi elicotteri, soprattutto quando volano così basso e comunque che accendono e spengono magari il trasponder, sono elicotteri che decollano da navi, quindi lo spengono quando poi devono andare a atterrare sulla nave, e questa è una procedura che dovrebbe essere normale. Quindi io lo so perché li sento via radio, praticamente, che comunicano col centro di controllo e dicono elicottero decollato da mezzo navale, diretto, che ne so, Sigonella, diretto a Pratica di Mare, e, insomma, tutta quella categoria di frutti strani. Ma quello l'Augusta, quello simile a Paccio, elicottero da combattimento, era basso, volando proprio basso basso lungo costa. Infatti, che cavolo ci fa questo? E dove sta andando? Cioè, se uno deve andare in continente da qualche parte, non fa quel giro da Argentina, cioè era contro natura, cioè anche questi elicotteri militari seguono delle rotte a piacimento loro. Sì, ti credi che c'è un'aerovia propria, in più anche aerovie civili possono usare. Quello lì probabilmente magari era carico, chissà dove è partito, era carico di qualche giocattolino e volava di lì per non farsi intercettare, perché fanno anche questo tipo di esercitazioni, e andava probabilmente verso Federato di Sfogo o tutte quelle altre, quei poligoni che abbiamo qua. Quindi anche quello è spiegabile. Vabbè, ma io dico, noi ci facciamo un ragionamento, ma effettivamente non sappiamo niente, a noi ci troviamo a volte sui fatti compiuti, così questa storia che è successo, c'è un amico che lui è in Indonesia, ha detto, ma cosa sta succedendo? Non stanno dicendo niente le televisioni, loro erano preoccupati di un attacco imminente, parliamo quest'inverno, quando c'è stata quella crisi delle navi cinesi che hanno fatto quell'esercitazione congiunta russi e cinesi nel mare della Cina, meridionale. E gli ripeto, ma anche qua tutti i telegiornali ogni giorno parlano di questo, ma tu qua, guarda che i telegiornali italiani, sono, allora sono entrato sui canali loro, quelli dell'Indonesia, cazzo, di lì da tutte le ore, e c'era poi, infatti era partita con la porta aerea inglese, poi c'erano gli americani, e dice qua stava facendo un'invasione, preparando un'invasione, infatti erano spaventatissimi, dice tutti i negozi facendo scorte di materiale, di materiale. Ai canali italiani nessuno ha detto niente, anche i canali francesi, nessuno ne ha parlato, eppure lì erano spaventati, parliamo verso marzo, quel periodo lì, loro erano cagati, qua stanno invadendo qualche tipo Hong Kong o qualcosa del genere, qualche zona di lì del meridionale, dell'Asia meridionale, poi grazie a Dio non è successo niente. Sì, perché molte cose sono, come dire, sono o enfatizzate oppure nascoste a seconda delle varie convenienze, ma quella è tutta propaganda, capito? Già ne vediamo anche troppa sui telegiornali oggi di propaganda fatta da certe persone, non c'è da me la tagliare. Non so se hai sentito però qualche giorno fa che un generale riguardo a Trump ha detto che è il generale, diciamo, dopo Trump era il vice comandante praticamente di tutte le truppe americane, che nell'ultimo momento in cui è stato detto Biden avrà proposto di allertare tutte le truppe per un eventuale attacco nucleare nei confronti della Cina. Cioè, questo comandante adesso che si è dovuto attaccare subito al telefono, perché ovviamente questo movimento di truppe sai che si osservano, ognuno sa quello che fa l'altro, no? E quindi ha dato immediate assicurazioni al suo omologo in Cina che non c'era da preoccuparsi, di stare tranquilli, che sarebbe tutto tornato nella normalità. Ma quindi il Signore lo sa quante volte questo pianeta ha corso il rischio di ritrovarsi di fronte a qualche passo guide schizzato di brutto. Già lo so, l'hai visto adesso che è successo con il patto d'acciaio che hanno fatto Stati Uniti, Australia Gran Bretagna, che hanno fatto fuori la Francia, che ha preso 50 miliardi di euro di appalti militari per quei sottomarini nucleari contro la Cina, per combattere la Cina. Cioè sta diventando una cosa un po' delicata e la Cina meglio non toccarla. La Russia te lo puoi permettere, ma la Cina sinceramente ci sarei molto molto attento prima di cercare, perché la Cina è una diversa mentalità, c'è di lì. La Russia non gli conviene creare una guerra, perché diciamo è una mezza dittatura democratica, ma in Cina non gliene ha fatti nulla, dice mi servono 3 milioni di soldati, prepara tutto, allo sbaraglio, non ne frega niente a nessuno. Sì, avanti. Buonasera Carlo. Ciao Carlo, ben sentito. Cos'è questa pernacchietta al posto del bimbo? Non lo so, forse mi è entrata in funzione, stavo smanettando. Sembra la cosa della trombetta della bicicletta, vai già. Sì, ciao Carlo. Buonasera. Infatti è un tono un po' buffo. Ho messo il fine chiamata, però io non lo sento, lo sentite voi, quindi non so cosa è venuto fuori, ma se è così brutto lo levo. No, comunque è delicato rispetto a quelli che si sentono, non è fastidioso, vero Robert? No, assolutamente, molte volte non c'è necessità qui in città, però quando là c'è qualcuno lontano che lo sente appena appena, io sono favorevole a utilizzarlo, il bip di fine comunicazione, però siamo vicini, non succede niente, non è fastidioso, ma cacco, quando io sento l'eco, che poi in città non riusciamo neanche a capirci, quello che mi gira i cosiddetti pallini. Cattivo, io eco non ne ho per fortuna, anche a me dà fastidio. Niente, rientravo dalla pedalata serale, rissa in Piazza Lessegni con polizia, carabinieri, manganelli, vigili, nel bar che c'è proprio all'angolo. Intervengo io, allora, io sono andato a fare la spesa alla Conad e sono passato verso mezzogiorno e mezza lì nel bar che c'è proprio ad angolo di lì, in famiglia Romita, eccetera. C'era il mondo di gente, infatti mi faccia l'assembramento, musica, tutto volume, eccetera, eccetera, mi si lamentano perché giù a Platamona hanno fatto una festa all'aperto con un po' di musica, eccetera, eccetera, e qualcuno si è messo a ballare, e gli ho detto che qua ci saranno 300 persone e nessuno fa niente. Mi la controprova, probabilmente sono andati la polizia a togliere gli assembramenti. Vai Gianfranco. Sì, ma poi tutta questa cosa si è saputo per cosa era, cosa, che intenzioni c'erano? C'era la partita oggi, che tra l'altro ha anche perso la torre. Ah, Carlo, quindi era per quello tutto questo ambaradan. Esatto, Gianfranco, erano i tifosi della Torres carichi di birra, ma io li ho visti da presto perché dopo pranzo sono passato lì rientrando da Bonorva con la mia 50 e c'era un assembramento che non finiva più. Poi sono riuscito verso le 5 e ho visto che c'era un sacco di pattuglie, carabinieri, polizia, vigili urbani, ma a 3-4 macchine almeno c'erano, avevano manganelli, perché mi sa che sono volati tavolini, c'erano bottiglie rotte di birra, insomma di tutto di più. Con la bicicletta sono passato vicino, quindi ho potuto osservare velocemente, poi sono andato via, ma c'era un assembramento pazzesco lì. Certo che non si sono attaccati quei tifosi del Giuliano, sono campani e sono un po' tutti, probabilmente magari c'è venuto qualche tifoso e sono arrivati anche alle mani, perché adesso in Serie D ci sono anche i tifosi che seguono a quelli di Giuliano e diciamo è abbastanza seguita come squadra, insomma non si sono bisticciati tra di loro. Ok, devo andare già. Sì, io sono un po' all'antica su queste cose, ma dico, ma un padre di famiglia che sicuramente ce ne sarà, o comunque delle persone grandi, cioè ma vai di lì a fare casino con una pandemia che c'è in giro tra l'altro, per una partita, cioè, ma le cose importanti sono altre, sono il lavoro, sono questi vanno di via a fare casino per una banale partita. Ma vattene al mare, ma vattene a fare un bagno all'acqua fredda, cioè che senso ha? Tra l'altro ti metti in guerra, magari se ti picchiano, se picchi qualcuno, magari scappa pure il fritto grave. Sono cose che le persone che ogni giorno hanno il problema del lavoro, di andare di lì dalla mattina, escono la sera, non ci pensano neanche, perché arrivano a casa che sono morti di stanchezza. Come può essere tu ad esempio, Roberto, se dalla mattina alla sera di lì c'è al lavoro e secondo te c'è la forza di andartene in piazza a fare casino, a ubriacarti, eccetera. È assurdo, no? Ne conviene. Lasciateli fare, buonasera a tutti, solo per un saluto. E questo è un ultrasso dalla Torres, questo è lui che ha organizzato tutto. Sì, è lui, se vede a me la Torres, allora, ci sono 40 anni che non avevamo partito la Torres. Buonasera a tutti, Claudio Sparviero, il nome è rimasto sempre quello, l'assentismo invece sta sempre aumentando. Ciao Gianfranco, ciao Roberto e ciao al nuovo entrato che non so chi sia, comunque segnale 9 qua nella mia zona. Buonasera a tutti, avanti al nuovo entrato, ascolto finale, vi saluto, bacio e abbraccio a tutti, ciao Buffi e Luigi. Carlo è il mio nome, niente, stavo chiacchierando e raccontando degli eventi appena accaduti lì in Piazza dei Segni. Tutto qui. Molto bene, ciao Carlo, ben ascoltato per la prima volta, Claudio Sparriero. 4 km da Sassari, ok, vi saluto, buon fine domenica, sono entrato solo a salutarvi. Lo sapete, per me ormai la radio è passata a secondo ordine, quindi l'assentismo continuerà. Ciao a tutti, buon fine domenica, a te cambio Roberto, ascolto il finale e chiudo, ciao ciao. Ciao Claudio, ben sentito, entra quando vuoi, già lo sai, comunque se interessa qualcuno la Lazio ha segnato col Cagliari 1-0, sta vincendo. Ciro Immobile di Cranio, infatti una netta tirata ha superato i difensori. Vai di nuovo per i saluti Gianfranco. Sì, ciao Claudio, fatti sentire ogni tanto, perché lo sai che con questi pensionati noi ci preoccupiamo, no? Infatti qualcuno è sempre sui giornali a guardare, come diceva Masin, quell'ultima vetrina, non ci fare preoccupare, da bravo. Sì, Gianfranco, no, non ho più voglia, ho già dato la radio un po' a tutto, quindi ho preso abbastanza, quindi me ne sto tranquillo e sereno, perché la vita è cambiata, l'umore è cambiato un po' tutto con questo trasferimento, quindi sono molto più rilassato, voglio continuare a essere rilassato. Un abbraccio a tutti e buon fine domenica. Ciao ciao. Carlo, per te il cambio, mi sembra che trasmetti nella zona di Lumesole, arrivi Santiago 9 qua, comunque molto bene. Non so come ti arrivo io, ma qua arrivi benissimo. Ciao, buonasera, il cambio è per te. Buonasera Sparviero, sì, qua arrivi anche tu molto bene. Santiago 9, Radio 5, ottimo ascolto. Tutto bene. Ok, benissimo. È reciproca la cosa, quindi non ci stanno problemi. Ok, cambio per te Roby, noi ci vediamo spesso. Ciao a tutti, buon fine domenica. Ciao ciao. Sì, ciao qua. Questa è la radio che piace a me, con un combattimento bella forte e potente. Ok, Carlo, tu stai arrivando a Momoletta, qua siamo molto vicini per quello, ma probabilmente le antenne si vedono, arrivi qua a 9.35, un segnale a bomba. Sono detto anche l'altro giorno, probabilmente quel di Polo è orientato dalle parti mie e va meglio. Considerando che sei in orizzontale, arrivi che è una meraviglia. Ok, di nuovo a te Carlo e poi Gianfranco. Niente, mica 20 vari, ve ne racconto un altro. Ieri sera è atterrato in ad Alghero, un Cessna con un motore rotto e fumo a bordo, perché io lavoro là e quindi siamo rimasti sino a oltre mezzanotte al lavoro perché c'era la pista chiusa, sinché poi l'hanno spostato e sono decollati tutti gli altri voli civili. Aspettate, c'è un break lontano, avanti che vuole entrare. Sì, dalla gentile che sei, che ti ascolto, Santiago, sì, Tino, così ha detto, non ho capito il nome. Tino Muscolo, Tino, ho capito Pino, sì, Tino, Santiago, sì, però sei in mezzo al QRM, ti tiro fuori con le pinze, dai. Cosa c'è la gentile, la voglia che ti ascoltiamo. Ehi, ehi, ha detto salutone a tutti che sta rientrando, dai, ciao, io vi saluto, buon fine a tutti, ciao, ciao. Ciao Tino, ciao, ben ascoltato. Questo passaggio è arrivato quasi 7. Carlo, una domanda se lo vuoi dire, ma tu lavori nei servizi estinzione incendi? No, no, no, negativo, io sono dipendente dell'aeroporto. Ah, ok, come ho detto allora, ok, dipendente civile, se c'è un altro che chiama, parlati che vuole entrare. Chi sei? Oh, non ti capisco quello che hai detto. Certo, vabbè, ti ho lasciato lo scettro, che stai diventando brutto. Ho detto se lo ascolti, chi sei? Vieni avanti. Chi è quello col bip? Vieni avanti. Mario Rapportatore, ti ascolta Claudio Sparviero, Santiago 7, Radio 5, molto bene. Sei così basso, Santiago 6, Mario qua, però sei in mezzo al QRM. Tu, poi il Rapportatore ti sta arrivando bassino, perché mi arrivano 9 e oltre pure gli altri amici. La radio è forte, però è un po' disturbata, ti sento. Ehi, ce l'ho ben sentito. Non so se ti abbia ascoltato Gianfranco, ma penso sia un po' problematico, perché lui è un po' nascosto. L'hai ascoltato Gianfranco? Sì, l'ho ascoltato, anche se anche io mezzo al QRM, quella zona è coperta sempre a Monte Oro qua, quindi è un po' difficile. Riprendi Claudio. No, no, vi lascio, sono fatto capolino per rispondere a Tino e a questo Mario, che rimane abbastanza bene. Aspetta Roberto, te l'ho scelto, stai sempre calando con questa ricezione, mamma mia, lo metto, va bene, dai. Ci sentiamo ragazzi, non riprendo più, il cambio per Carlo, mi sembra che stava dicendo qualcosa in riferimento a qualche argomento che avesse, però io vi saluto, c'ho altro da fare, ciao a tutti, buon fine serata, ciao ciao, Carlo, va per il cambio. Ciao Sparviero. Ciao Ogiro, buonasera. Ciao ciao, ciao Tony Corbiani. Ciao Francesco, saluto anche a te, ben ascoltato, lì viene una bomba qua. Molto bene, dai, il cambio allora per Carlo, io vi saluto, rimango in ascolto e non riprendo più, ciao ciao a tutti, avanti Carlo. Nuovo, buonasera Sparviero. Niente, no, perché prima sentivo gli altri amici che parlavano di un po' di voli, elicotteri, eccetera, quindi a quel proposito ricordavo di ieri, no, di questo episodio che è accaduto, ma niente di grave per fortuna. Ho sentito, ho letto su giornale, ma tu cosa occupi in particolare, se lo vuoi dire, di cosa ti occupi? Controlli di sicurezza. Quindi già vi siete un po' spaventati, dai. Poco poco, perché quando partono gli allarmi solitamente, insomma, si blocca tutto e si fermano tutte le operazioni regolari. Scusa, Roberto, volevo fare una domanda a Carlo. Ma lavori con Alessandro tu per caso, Carlo? Alessandro sì, ce l'ho un collega. È un radiomantore di Alghero? Sì, sì, sì, però lui lavora in operativo fuori, mi sa. Sì, sì, esatto, esatto. So che lì alla, non so se bagagli, non so cosa sia, vabbè, comunque va bene, quindi siete lo stesso gruppo suo, non dico qua, sentivo anch'io l'amico di Porto Torres, però molto QRM, Santiago 6 anche qua da me arrivava. Io zero, lo sotto zero di QRM, proprio manco ci muovo da quello smitter, è una donna favolosa veramente. E quindi non fai girare, dai, curati per me, ciao a tutti. Ehi, ciao, ci sentiamo, ciao Francesco, anche tu arrivi a bomboletta qua. No, no, io pensavo fossi nel gruppo dei... c'è un amico che lavora lì ai Vigili del Fuoco, proprio a Fertiglia si occupa di questi interventi, mai ci dovrebbero essere. Vai Gianfra. Sì, no, io stavo pensando a una regolazione, insomma, per il coso, ma forse la GCECO, forse l'ho trovato. Riprendi, Carlo. Sto tentando di levare il fine corsa della radio, ma mi sa che entra ancora. Beh, non ti preoccupare, a noi non ci dà fastidio. Se vuoi ti faccio sentire il mio, guarda. È molto più brutto. E che c'è il bip con la radio, Gianfra? No, è l'altra che ce l'ha. No, tornando al discorso di quel 95 del Barrett, c'è anche lo scrambler, no? Per fare la voce non ricevibile, mi sembra, Gianfra. Opzionale però, credo. No, non lo so, io ho visto le istruzioni, l'ho scaricato in inglese, devo leggerle bene. In italiano ci sono, ma queste sono a pagamento, per cui lasciamo perdere. Sì, di lì ogni cosa è opzionale. No, non riesco a... non mi può da riguardare le manuale. No, ho capito, perché la lancetta da segnale rimane ritardata. Ma del segnale trasmesso o ricevuto? No, ricevuta, da segnale ricevuto. E magari c'è qualche impostazione, molte volte queste radio hanno delle impostazioni sul menu che te lo danno un pochettino in leggero ritardo. Sotto sento gente che parla comunque. Infatti lasciamo un attimo il bianco, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, anche io le sento, oggi ci sono segnali lontani e molto bassi. Avanti, chi vuole entrare? Chi sei avanti? C'è uno che ha mandato portante, Santiago, però non riesco a capire. Mi sono aspettato 3 secondi che ho risposto al telefono. Carlo, cosa stavi dicendo? Non ho capito. Ho detto che stavo provando a levare il fine segnale, ma non ricordo con le impostazioni, essendo nuova la radio, devo prendere il manuale per toglierlo, insomma, perché magari è fastidioso o quant'altro, anche se Gianfranco mi diceva che non disturba. No, assolutamente non ti preoccupare, anzi. Ora lo farò in seguito, magari con più calma, quando trovo il manuale della radio, perché adesso qua a portata di mano non me lo ritrovo. Vediamo, adesso volevo fare una domanda a Gianfranco. Il segnale di Carlo, considerando che lui è in orizzontale, quanto ti arriva dalle tue parti? Vieni avanti. 1, 2, 3, prova radio. 9,15. Comunque riesce a radiare bene qualcosa con il polo. Cos'è un quarto d'onda? Che lunghezza c'ha? Sì, è un quarto d'onda, è dell'Assirio. No, no, complimenti. Vabbè, noi siamo vicini, qua arrivi 9,35, c'è il segnale di Claudio. Cos'è che lui dall'altra parte della città sta arrivando alla bomba? Vabbè, parlate, sei molto in alto, tu è aperto verso il mare. Ho capito, ieri un attimo acceso sentivo che c'era il collega di Muros forse, però non potevo, ero occupato, non potevo intervenire, quindi non ho potuto fare un controllo, però io lo sentivo molto bene. Complimenti, buono, per essere in orizzontale è un buon molto efficiente come questione di, cioè come antenna. Ok, vediamo, c'è Francesco di Usilo, se c'è ancora, l'abbiamo lasciato in bianco. Avanti Francesco. Vabbè, sono fino, dai, dalla corte, mi dà rapporto, grazie. Santiago 8, Radio 5, e tu che ascolti a me? Ehi, già ti conto bene, Puglia. Non ti do segnale perché sto guidando e ce l'ho un po' la sorpresa, c'ho troppo passo, però già va bene. No, ma guardate la radio sia 5 che mi dà un rapporto di radio chiara. A posto, Roberto, tutto ok. C'è Gianfranco, vediamo se ti ha ascoltato. Gianfranco, l'hai ascoltato a Tino? Sì, lo sento. So che stavo arrangiando un po' l'affare per scoprire a cosa è dovuto. Poi c'è Carlo, l'hai sentito a Tino? È alla corte, sta rientrando Carlo. Lo sento molto, molto in mezzo al QRM. Santiago 4, 5 un po' oscilla, a volte si capisce qualcosa, a volte no, non lo sento molto bene. adesso si sta avvicinando, per cui lo dovreste ascoltare molto meglio. Qua diciamo verso quelle zone già sono abbastanza aperto, diciamo, che non va in qualche fosso, ma allevamo con Palmadola tranquillamente Montenurra quando c'era Salvatore, il figlio, adesso non ricordo come si chiamavano, tanti anni fa, però loro erano in postazione fissa. Comunque Lino si fa sentire bene, soprattutto il radio molto molto potente. Beh, cosa? Chiamato Francesco di Usilo, se c'è ancora, ma non ha risposto. Francesco, ci sei? Sì, che sono, ma ero con lì che si ascolta io. Però cioè, sono stato così per salutare il Barbiero. Ok, salutone cordiale a tutti qua dalla Corinetta. Ben sentiti a tutti, ok. Riprendi tu, Roberto, deve stare un controllino che sta arrivando lì, Ok, a te con la buonasera, Carlo. A me sta arrivando quasi 9 più 5, chiediamo a Gianfranco, che è quello più lontano, e poi a Carlo. Gianfranco, come ti arriva Francesco? Vieni avanti, Francesco. Ok, Roger, vediamo un po', 1, 2, 3, prova a un rapporto di CR Romeo. A te, Carlo, con la buonasera. Sì, sì, buonasera, S910 Radio 5, dai, che funziona il segnale. Va benissimo, va benissimo. Ok, riprendi allora, mi pare, Carlo, facendo con un dipolo, qua arriva con un segnale di 8 e una radio di 4, diciamo non molto potente, dai, però una radio 4. Avanti, Carlo. Tanto anch'io non ti sento molto chiaro, comunque il segnale è abbastanza forte, Santiago 8 Radio 5 non è eccellente, comunque è abbastanza comprensibile. Ok, va bene, è importante uscire, ognuno fa le sue, dai, i suoi pareri. Benissimo, va bene lo stesso, perfetto, va bene, riprendi Roberto. Siamo molto vicini, per cui non c'è problema. Probabilmente Mario si è un po' nascosto, perché Usilo qua io ce l'ho di fronte, dovreste arrivare un po' più forte. Comunque 9-5 non è un cattivo segnale Radio 5. Che avanti. Buonasera, Cristian. Chi sei? Ciao, ecco, non ti capisco. Chi sei? Scusa, Cristian. Ciao Cristian, Santiago 7, tu, se tu li leggo forse ti ascolto anche meglio. Radio quasi 5, dai, 4-35. Vediamo se ti ha ascoltato Gianfranco e Carlo. Sento che c'è qualcuno che parla, ma non ho capito. Mi senti adesso? Adesso sì. No, perché sono a metà di DVD, mi sento benissimo, tutti quanti. Sento anche io, però a tratti non è molto chiaro il segnale. Però quel bipolo va bene, complimenti, perché qui io sono a metà di DVD, dove c'è la Spia Sarda, e sono a Santiago picchi 9-10 anche. Capito, non mi è chiaro però da dove stai modulando. No, ma Budi Budi, dove c'è la Spia Sarda? Sì, adesso ho sentito Budi Budi, ho capito. E diciamo forse la polarizzazione verticale un po' mi penalizza in quella zona. Ma c'è i picchi da 5 a 9-10 di modulazione, va benissimo. Il cane è appareggiato, se interessa a qualcuno, lo sto guardando in diretta. 1-1. Bene Mera, se pareggia o vince mi fa piacere, anche se io non sono del Cagliari e seguo il calcio, ma quando vince il Cagliari è sempre una bella cosa per la Sardegna. Andà bene. Ok, Gianfranco, a te il mic. Sì, io parlo. Provare un po' i vari comandi, però non è cavolfiere, tutto lì. Riprendi pure tu, Robè, che do un'ultima piatta, poi vediamo un po'. Quando c'era, non so se tu te lo ricordi, forse non c'eri, Pinangelo, quello di Alghero, Gianfra, c'aveva un mix di quelli che c'erano, quegli effetti tipo la giostra, ci mettevi robot, sistemi sirene e cose, lui l'aveva attaccato all'apparato, c'aveva una stazione base, non mi ricordo di che cosa era, non mi ricordo, e l'aveva messo il microfono come sul mix, e poi come finiva la trasmissione schiacciava questa cosa qua, usciva la musichetta, la faceva troppo ridere. Volevo fare una KF, ieri sentivo una stazione meteo che era thailandese, dopo il bollettino mette questa musica curiosa, un'altra stazione che fa la stessa cosa è Radio Monte Carlo Radio praticamente, perché ci sentono anche i gabbiani. Una cosa cui usiamo sia in HF, lo fai sia anche in UHF. No, c'è preparazione, si sente molto bene in banda marina. Riprendi Carlo. Scusate, stavo smanettando, mi sa che sono riuscito a togliere il beep. Datemi conferma. Confermo. Ok, adesso ho capito come funziona. Devo tenere premuto scan per più di 3 secondi e poi col microfono oppure con la manopolina del cambio canale si mette on off e si elimina. Una domanda, Carlo, ma è un baracchino veicolare o un vaso? No, è un veicolare questo. Ma di nuova generazione o vecchio? No, è nuovo, l'ho preso, sarà un mese e mezzo fa. Quindi c'è anche la FM e le bande laterali? Sì, esatto, AM, FM, SSB, USB, LSB. Vabbè, ottimo. No, già esce bene come radio. Diciamo, non è molto corposa, è un po' ricca di tonalità acute, però bella chiara, pulita, non ti posso dire niente di negativo. Magari se le hai un microfono magari un pochettino più prestante, riesce ad andare meglio. E perché tornando ai rumori particolari, te ricordi Gianfra se ti è capitato le Lamba Station con la musichetta mini mini che c'era sempre per il film di terrore e l'esorcista? Chi è avanti? C'è la stazione che ha chiamato, basso basso. Lo sento anche io, avanti chi vuole entrare. Ti ascolto, dimmi chi sei, sei basso, sei 5, sei mezzo a QRM. Non capisco quello che stai dicendo, parla un po' prolungato e dimmi chi sei. Gianfra, guarda se riesci a capire quello che dice, non lo sento, c'ho il QRM sempre alto io, è mezzo a QRM proprio. No, io lo sentirei, solo che forse parla troppo veloce. Prova a venire avanti e dici chi sei, a me neanche mi sente. Brecco, Brecco, dalla P. Chi sei? Avanti il Brecco. Buonasera, ho cambiato lei in questo momento, non so da dove sei venuto, non qua la provincia di Bari che mi ascolta al 100% potere. Provincia di Bari, questa è la città di Sassari, in compagnia di Roberto da questa parte, poi c'è Gianfranco, Carlo e poi altri amici un po' più lontanucci che stiamo cercando di capire da dove modulano. Comunque Sassari ti saluta, davanti a te l'amico se vuoi dire il nome. Donato, provincia di Bari, vicino a Castel del Monte, qua la Puglia. E quello l'avevo capito che più o meno era la Sardegna, però ho ascoltato più un mezzo passaggio per capire che io la Sardegna ce l'ho nel cuore, ti dico già tutto. Ok, sono Donato e riprendi. Ok, vai Gianfranco. Sì, anche lo sento. Riprendi un attimino tu Carlo, che sto facendo una cosa qua. Che io l'amico della Puglia lo sento molto molto chiaro. Santiago un po' oscilla, ma la radio è 7-8, la Puglia è molto bella, mia moglie e mia figlia quest'anno ci sono state per una settimana, hanno visto un po' Albero Bello e tutte quelle zone là, Matera, Bari. Hai sentito un amico di Bari? C'è la propagazione scomparsa, vediamo chi chiamava poco fa da lontano, avanti chi era? No, io Roberto, volevo sapere chi era quello entrato, che l'ho ascoltato bene bene, qua è zona Sacchetto, dai. No, tu, vabbè, tu stai arrivando forte, sei 9, c'era uno in al fondo che non riuscivamo a capire chi era, ma eri tu poco fa? No, negativo, ho preso il mic adesso, ho sentito questo amico, era forte, forse in propagazione, non so. Sì, da Bari arrivava oltre 9 qua, probabilmente adesso è scomparso, avanti di nuovo se c'è l'amico di Bari. Sto qua, sto aspettando i vostri passaggi, non lo so, allora qua... Andrea vicino a Barletta, la bischita di Barletta, Andrea, perché sei del monte, ok? Sì, mi dai un rapporto di segnale, l'amico qua di con le donne lì. Mi butto, Andrea, vicino a Barletta, cambio, a Sassari arrivi abbastanza bene. Ok, vediamo quello che era poco fa lontano che chiamava Sassari, avanti chi chiamava? Se c'è qualcuno che parla ma non riesco a capirlo. Ti do qualche già fra il mic, Gianfranco ci ha allontanato, vediamo se Tino ci ascolta ancora. E io voglio, Robè, radio fortissima, sono zona Sacchetto, sempre rientrando, vai, ciao. No, arrivano forte quello di Anne, Ma secondo me si stanno aiutando perché era un po' compresso di radio, arrivavano quei 10 qua in certi passaggi, però secondo me si stanno aiutando con qualcosa, lì scalciava un po' la radio. Avanti di nuovo, pari. Ok, ho detto prima che la Sardegna e dopo il militare niente, ancora un amico da Igeri, no? Però se vuoi ripetere il tuo nome più lentamente perché non l'ho capito, l'amico di Bari. Donato. Renato, così è detto. Donati, Delta, Oscar, November. Alfa Alfa Tango Tango Oscar Oscar. Non ho capito sinceramente, cosa avete capito voi? Robbe Donato Donato Donato. Volevo dire Oscar Oscar, infatti stavo dicendo, infatti ho capito di Donato, però ho detto volevo dire Oscar Oscar. Perché? Avanti il break. Oh, ok, ciao Roberto, buona serata. Ciao Tino, l'amico Donato se mi ascolta. Che c'era, caro, se non sbaglio, che dopo le farò una domandina. Avanti ancora Roberto per te. Sì, sì, sì, ben sentito. E oggi c'è un po' di gente, abbiamo un po' di movimento, c'è Tino che sta rientrando, si sente a Mommoletta, poi c'era Cristian, non so se c'è ancora un altro lontano che non capivamo, poi c'è questo di Bari, c'è Carlo, Gianfranco, un attimino è entrato Claudio e poi c'era Francesco Di Usilo che adesso è andato via. Facciamo rientrare a Gianfranco, vediamo un po'. Gianfranco, sono tornato, vai Carlo. Sono qua, l'amico di Bari, Donato, non l'ho più sentito, rilancio e facciamo rientrare Donato se ci sente ancora. Io se non so, avete la me, io sento qualcosa troppo, ma dovrebbe essere la spagna. Vieni, vi ascolto tutti quanti. Mi pare Tino, mi arriva Santiago Rove, no, Santiago Rove. Tino, hai sentito? Tino, cari, adesso sono di nuovo su. Cosa mi ha detto Robè? Che ti ascoltava Santiago Rove, Tino. A me Donato come mi ascolti e poi se mi vuoi dire le tue condizioni di trasmissione, apparato, antenna e microfono. Lo stesso, tu mi arrivi pure a tratti, certamente l'azione, vai vieni un attimo, però mi arrivi pure tu forte, Santiago 9, 8, 7, 8, 8, 9 e tutto quello. E niente, c'ho un alimentatore che, cioè un lineare che arriva a 80 watt più o meno, c'è un po' di spinta, un microfono da tavolo e un apparato, un airbag, quello un po'... Sì, antenna, che antenna sta utilizzando? L'antenna è Game Master, autocostruita, un amico me la costruita, Game Master, autocostruita. Sì, sì, sta andando bene, nessun problema da questa parte, ti ascoltiamo. Vediamo se è rientrato Gianfranco, se no riprende il mic e Carlo. Avanti Gianfranco. Come si trova Robè? Vicino a Bari, ha detto. C'è anche Luca, comunque. Vediamo se ascolti Luca, l'amico Donato di zona Bari. Attenzione Bari, ascolti Luca, Sassari, avanti. Certo, Luca, ascolta tutti quanti bene, bene, bene. Tu, Santiago, 789. Positivo. Qua sta arrivando quasi 9.30 qua, Sì, quasi 9.30. Ciao anche a Tino, se mi ascolta. Avanti, Tino. Ciao Luca, sì, ti ascolto, dai, sono a mancare, approfitto a salutare anche a Giulio, che è entrato a Focati, non ho avuto modo di salutare, perché c'è la giro della ruota, va bene, dai. Ciao Donato, ti saluto, dai, rimani in quel X che sto guidando e niente, dai, ripeti tu, Robè, fai girare tu, ciao, ciao a tutti. Sì, ciao Tino, ben sentito, vai Giulio. Ok, ciao Tino, ben ascoltato, e io nel frattempo sto guardando la partita del Cagliari, Focati stavo guardando quella del Chelsea, però adesso ho cambiato per vedere il Cagliari e sono contento che sta pareggiando con la Lazio. Sì, saluto a Carlo e saluto anche l'amico di Andrea, se ricordo bene, dalla Puglia. Carlo, ti volevo fare una domandina. Tu prima, da dove parlavi? Da Bologna? Saluti a tutti, amore, mi saluti. Nemmeno andiamo giù da Donnaro. Ciao Luca, vabbè, stavo guardando un partito pure sa. Adesso Carlo. Sì, puoi ripetere che mi ero appena allontanato, ho capito, mi hai chiesto qualcosa ma non ho sentito bene. Ho detto, ieri parlando con Roberto, c'era il radio, mi aveva detto che tu modulavi, una volta modulavi da Bologna, confermi? Positivo, sì, io sono di quella zona là. Ascolta, ma parecchi anni fa, tu hai mai sentito il nome Dollaro oppure Dribbling? Sì, ogni tanto collegavo, mi ricordo così un po' vagamente questi nominativi, però non era molto semplice il collegamento con Sassari. Sì, quello è vero, quello sì, appunto, no, perché stavo parlando appunto con Roberto poi, ieri, scusate gli amici, no? Togli un'altra curiosità, il tuo nominativo che usavi quando era a Bologna, com'era per caso? Faceva parte di una europea, diciamo, vai. Allora, il mio nome nome nativo era Stazione Europa. Ecco, allora ho azzeccato, appunto, stavo dicendo, il nome nativo Unione Europea, Europa. Ok, io credo di averti collegato in quegli anni lì, sicuramente, guarda. Però, se ricordo bene, è in banda laterale, non in AM, adesso questo io non me lo ricordo con esattezza. Molto probabilmente sì, perché prima avevo un apparato e uscivo anche in banda laterale, sempre con il dipolo io sono andato. Sì, va bene, quello è un'altra storia, quando il dipolo è montato bene ed è orientato verso una determinata posizione, non c'è da meravigliarsi, anche un collegamento così a lunga distanza. No, perché io mi ricordo benissimo che Bologna lo collegavo, però se ricordo bene lo collegavo solo ed esclusivamente a banda laterale. Vabbè, adesso mi ha tolto il dubbio, evidentemente di tutti ad allora. Ok, comunque io sono Giulio Dollaro. Allora mi amico di Bari, se ci sei ancora, o meglio di Andrea. Diciamo, quando andate via, dovete dire a Zubini, completo. Ciao Donato, qua operatore Carlo da Sassari, Santiago 9 per me, arrivi molto bene. Ti prendo io allora per salutare Donato, ciao Donato, Giulio da Sassari comunque, sono contento, mi sa che il Cagliari ha segnato di nuovo, quanto sembra, vediamo un po'. Vabbè dai, comunque, guardiamo su un altro discorso quello. Avanti Luca! Luca non riprende, Roberto avanti. Ma ho sentito che c'era anche Gianfranco Bocanzi, non so se lui mi sta ascoltando, lo saluto. Avanti Roberto. Sì, sì, sei apparso. Tu forse un paio di secondi prima di me l'hai visto, ricordato, però non è che io sono da zona, tu forse la stai guardando, vai a Sky, dove la stanno andando la partita. Cagliari è passato in vantaggio con un ex Lazio, che i Tavallè. Sta vincendo 2-1, Roberto, i Tavallè sono fatti, Tavallè sa che ha segnato il Cagliari, infatti avevo visto bene, ma perché sto dando un'occhiata al microfono, un'occhiata alla partita. Sta vincendo il Cagliari 2-1. Sì, lo sto guardando anche io, aspetta, facciamo vedere avanti Gianfranco, si era allontanato, vediamo se c'è ancora. Gianfranco, ci sei, batti un colpo. Allora, scusate, che noi qua ad Andria siamo tutti. Sì, avanti il break. Positivo, buonasera, 7-3, Antonio, qua Rossella, provincia. Sì, buonasera Antonio, qua Roberto da Sassari, segnale tuo 9, Radio 5, la città di Sassari, in compagnia mia di Roberto, Giulio, Carlo, c'era Gianfranco, poi c'è un amico tuo collega Donato della zona di Bari e poi ce ne sono altri che non mi vengono qua in mente. Vediamo di nuovo avanti l'amico di Giù, di Matera. Io la stelle mi stai rispondendo alla mi conferma, cambio. Certo il mic a me. E ha detto che noi battichiamo sul canale 14, se volete, non lo so. Attenzione amico di Cagliari. Aspetta, stava parlando il tuo collega dalle tue parti di Bari, comunque la città è Sassari, la parte opposta di Cagliari, noi siamo al nord della Sardegna, Cagliari al sud. Ok, ti rilancio Giulio, vediamo se lo ascolti. Avanti Giulio. Sì, lo ascolto molto bene. Ciao Antonio, Giulio da Sassari, in cui siamo appunto con gli amici. No, poc'anzi stavo chiamando Luca, ma evidentemente Luca si è allontanato, non fa niente. Avanti Nicola. Cioè Nicola, Carlo volevo dire, sempre mi confondo qualche volta, avanti Carlo. Sì, anche io ho sentito l'amico da Matera, Antonio, anzi se mi senti dimmi come ti arriviamo da Sassari, nord Sardegna. Attento Antonio, Matera, sei ancora? Sì, positivo che ci sono, dai, con la buonasera a tutti, la ruota qua, K5 Antonio di Rotondella. E appunto ti ho chiamato perché ti ha rilanciato un amico qua, Carlo da Sassari, non so in quest'ultimo passaggio se forse non avevi ascoltato, avanti ancora Carlo per l'amico di Matera, Antonio. Antonio, se mi senti, un saluto dal nord della Sardegna, Sassari. Positivo, buonasera anche a lei, sì che ti ascolto, dai, c'ho un po' di flusso, un po' di remme, ma ti ascolto per stare qua nella mia ricevente. Antonio, quali sono le tue condizioni di trasmissione? Antenna, apparato e microfono. Polo, operatore Carlo, in compagnia di tanti amici di Sassari, rilancio Roberto adesso. Aspetta, forse ti ho sovramodulato, no. Ripeto all'amico Antonio della zona di Matera, le tue condizioni di trasmissione, apparato, microfono e antenna. Allora, apparato, microfono e antenna, ferma. Sì, sì, può essere. Positivo, dai, ho apparato un tuner, una LAN 87 e una Blizzard. Bene, bene, sta andando bene, radio molto chiara e potente. Ok, di nuovo a te Giulio. Ok, quindi per la cronaca lo volevo dire all'altro amico, a Donato, che lui poc'anzi ha detto che stava trasmettendo con una Game Master autocostruita da un amico. Anch'io sto utilizzando la Game Master, ma quella originale. Oh, Donato, se mi stai ancora ascoltando, avanti il microfono per te. Si sente che sei basso basso, eh? Sì, basso basso, arriva ferma, sempre ferma. Sì, abbiamo capito, sul canale 14, quindi proveremo in quel canale. L'amico Donato, non ascolti il tuo collega delle tue parti di Matera, Antonio, vi sentite? Negativo, non Matera, non so, se mi... non ascolto, mi spalle H. Ok, chi era? Tino poi, poco fa. Tino, tu sei? Sì, dai, è arrivato a Sassari. Quasi 9:20 il secco, la vedo. Robe, dai, sempre così l'impianto, è quello. No, bella potente la radio. Ok, vediamo di nuovo Gianfranco, lo richiamiamo, se è rientrato. Avanti Gianfranco. Nulla, Gianfranco, di nuovo a te Carlo. Sera, Tino, ti sento molto bene adesso. Arrivi adesso a bomba anche a me. Prima era un po' disturbato, però adesso è molto comprensibile. Radio chiara e a bomba. Bene, bene, dai, ritenete tutti quanti salutati, dai, sono zona uscita di Punti e entrando a Sassari ora. Oh, ed è per quello che ti aggiorno basso io, vero Tino? Ciao Tino, ti sentiamo le prossime, ho sentito che stai chiudendo. Vabbè, dai, io continuo a vedere la partita, gli ultimi minuti della partita, dai, dai, continuo a dire, Cagliari sta vincendo 1. Bene, vabbè, dai, probabilmente ci sentiamo dopo per i saluti finali. Continua a vedere l'ultima persona della partita, riprende, vabbè. Ma sto guardando qua la cellulare, ma mancano più di 20 minuti di giù, c'è ancora una volta. Poi quella stasera Milan-Juve, quella è una bella partita. Speriamo che ci siano anche dei gol in modo che sia anche divertente, che non sia la solita partita monotona. Ok, avanti Giulio, Carlo, per i saluti a Giulio. Ok, ciao Giulio. Niente, stasera la vedrò anch'io quella partita perché sono juventino, quindi sono direttamente interessato. Speriamo sia davvero una bella partita. Niente, anch'io sto sbirciando un po' il Cagliari, mi fa piacere che stia vincendo, che abbia segnato anche un ex della Lazio, Keita. Sì, vabbè, probabilmente l'ha segnata Europa e la seconda Keita appunto della Lazio Cagliari. Va bene, la vedo eventualmente, dopo che finisce la partita. Se prendi di nuovo Roberto e fai girare tu, vai. Io continuo a vedere la partita e voglio vedere il finale. Sì, va bene, dai. Vediamo se c'è quelli lontani, ancora ci sono ancora, l'amico di Matera Antonio. Avanti Antonio, l'altro amico Donato di Bari, la popolazione sta calando, adesso si è sceso a sì, speriamo che riusciamo a salutarti. Vabbè, ti salutiamo, almeno da parte mia, saluto, piacere ascoltarti per una breve QSO, però non c'è problema, speriamo in situazioni migliori. Ti rilancio qua l'amico Carlo, così per i saluti. Avanti Carlo. Ciao Donato, se mi ascolti, sì, la propagazione sta un po' andando via, se ci senti un salutone grande da Sassari. Ok, vediamo Cristian, che c'era anche lui poco fa, se c'è ancora. Avanti Cristian, sparito. Qui siamo arrivati tu soltanto, Carlo. Io sto aspettando che chiami mia figlia, stavo un momento all'altro, mentre si stava avvicinando. Non è un problema, io comunque rimango in ascolto, magari ci sentiamo anche più tardi, prima che inizi la Juve, perché poi me la guardo tutta quella. Nel caso ci sentiamo anche domani, volentieri. Sì, cioè coincide. No, no, ma sono ancora in radio, non mi ha ancora chiamato, sta rientrando da Portoferro, sono andati con fidanzata a surfare. Non so che mai abbiamo trovato, vabbè. Vediamo un pochettino. Dai, facciamo una chiamata qua sul 10 se c'è qualcuno che vuole entrare. Attenzione, canale 10 vuole entrare. Non c'è nessuno. Carlo, di nuovo a te. Vuol dire che la propagazione è terminata, anche se Antonio parlava di un canale 14 che loro transitano su quel canale là, magari poi più tardi ci facciamo una chiamata a vedere se ci sente qualcuno. Sì, sì, ho visto, considerando che non sono tempi, la banda CB si è un po' ripopolata, c'è stato un buco qualche anno fa, poi forse il Covid, non lo so, qualcuno ha rispolverato gli apparati. Esatto, infatti anche io ero da tanti anni che avevo un po' di materiale giù, tipo l'antenna, alimentatore, la radio non ce l'avevo più perché si era rotta, bruciata, e quindi ero senza. Poi così mi è venuta un po' la voglia di ricomprarla, ed eccomi qua a trasmettere di nuovo. Comunque mi fa piacere che ancora ci sia qualcuno a modulare. Sì, no, qua a Sassari qualcuno c'è. Sono un amico di Cagliari, mi ha detto proprio Cagliari è morto, qualche camionista si sente, ma pochi, proprio morto, considerando che Cagliari è molto più grande di Sassari come comune, nel senso di popolazione, dai. Eppure dice non c'è nessuno, vuoto. Ne ho capito, ma speriamo bene che magari qualcun altro ripopoli la frequenza della CP. Sì, l'anno scorso nel periodo Covid, parliamo verso aprile, da marzo in poi, c'era un sacco di gente qua, ma gente che era secoli che non si faceva sentire, decenni, vabbè secoli è troppo, almeno 20-30 anni, eppure si è rimesso di nuovo in moto il meccanismo della banda cittadina. Lo credo, quando la gente è isolata magari ha voglia di fare quattro chiacchiere o sentire qualche novità, notizie, insomma, accendi la radio e sai come va, magari uno sa una cosa, la racconta e così via, fa sempre piacere comunque sentirsi. Assolutamente, e poi quando ci sono belle conversazioni interessanti è sempre un piacere, molte volte possono essere anche monotone perché si parlano di argomenti diciamo poco interessanti, però tante volte ci sono, tipo ieri, poco fa, qualche mezz'ora fa con Gianfranco, quando si